Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Una sera Winifred andò in camera di Stephanie, gesto insolito per lei, convinta che quella figlia, come lei, preferisse che le cose non fossero verbalizzate, commentate. Disse che era giunta alla conclusione che era compito suo invitare Daniel a casa, se Stephanie lo desiderava, e dargli il benvenuto. Quanto a Bill, proseguì di fronte al silenzio di Stephanie, si sarebbe calmato, come sempre. Stephanie rispose che ne dubitava. Un uomo come Daniel, Winifred ci contava, avrebbe rispettato le appassionate convinzioni di un altro uomo. Stephanie replicò cupamente che dubitava anche di questo. Daniel non era un uomo tollerante. Era capace di collere terribili. Winifred parve agitarsi e le chiese se poteva sedersi. Seduta sull'orlo del letto, con addosso la vestaglia, disse: «Mi ha lasciata durante la luna di miele». Stephanie la fissò stupefatta. «Non ne avevo mai parlato con nessuno. Eravamo a Stratford-on-Avon e uscì dal bar del teatro durante l'intervallo. Davano molto rumore per nulla e io ero così felice». Quelle scene d'amore erano talmente reali. Eppure nessuna cosa al mondo mi è cara più di voi. Non è strano? Così, durante l'intervallo, gli dissi cosa avevo fatto. Mi sentivo in tale sintonia con lui. Ma era la commedia. E cosa avevi fatto? Ah, sì. Avevo scritto ai suoi genitori per dire loro che eravamo sposati e felici. Speravo che si facessero vivi. Non lo fecero? No. Aveva ragione lui e io torto. I Potter sono rigidi e cocciuti. Sì, disse Stephanie pensando, lei non è una Potter. Ma io sì. Comunque, quando glielo dissi, cominciò a urlare e a sbraitare nel bar, come fa di solito. Era la prima volta, io non sapevo che... Lo pregai di abbassare la voce e lui disse, se è così, andrò dove non puoi sentirmi. Corse fuori, prese la piccola macchina che avevamo... E sparì per 2 giorni. E tu cosa hai fatto? Oh, tornai al mio posto e cercai di restarci, ma fu inutile. Così rientrai in albergo e aspettai. Sai com'è quando aspetti? Stabilisci un limite prima di cominciare a preoccuparti. 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni. 2 giorni e 2 notti in un albergo senza soldi e senza nessuno. Non osavo allontanarmi. Facevo passeggiate brevi nel caso tornasse e sparisse di nuovo, non trovandomi ad aspettare. A volte sedevo nel giardino di New Place. Odio gli odori di quel giardino adesso. Limoncina, artemisia, sono così acri. Il tempo era bello e anche le rose canine, molto belle. Pensai di tornarmene a casa, ma mi sentivo umiliata. E che cosa ti ha detto quando è tornato? Oh, fece irruzione nella sala da pranzo. Stavo mangiando un omelette, non osavo mangiare altro, non avevo un soldo e temevo di vedermi arrivare un conto salato. Cominciò a gridare che si era comportato in modo insopportabile e che più rimandava, meno osava tornare. Allora andammo di sopra e lui disse, piangeva, che temeva di essere incapace, del tutto incapace di mantenersi calmo. Non si sarebbe dovuto sposare, disse. Così io lo calmai. E gli dissi che avremmo trovato un modo per intenderci. E così è stato. Sono contenta di questo lieto fine. Oh, Stephanie, non usare quel tono. È così che sei nata. Non sono venuta a raccontarti questa storia. Sono venuta per invitare Daniel a pranzo. Credi che verrà? Daniel venne. Winifred si fece in 4 per preparare quel pranzo. Fece un soufflé al formaggio, arrostì un pollo, riuscì a mettere insieme una macedonia di frutta fresca e l'annaffiò con una bottiglia in miniatura di Cointreau. Si divertì a preparare il soufflé con una lieve nostalgia per l'abbondanza d'anteguerra. Comprò del vino per Daniel e tirò fuori tovaglioli di Fiandra e bicchieri di cristallo. Era decisa a farlo sentire benvenuto e a suo agio. Daniel entrò nell'anticamera e sbatté la porta d'ingresso con tale violenza che i bicchieri da sherry in salotto tintinnarono sul vassoio. Gridò «Salve! Salve!» e ammirò ogni cosa troppo forte, troppo presto, troppo entusiasticamente. Aveva un'eccessiva fiducia in se stesso. Era convinto di poter affrontare la mondanità di un invito a pranzo solo perché passava la vita facendosi largo, non senza successo, in una selva di ostacoli imprevedibili. Ancora una volta aveva fatto ricorso al senso delle priorità e si era detto che ciò che Vivi e Winifred pensavano o sentivano non doveva né poteva alterare il rapporto tra lui e Stefani, e si era convinto che non sarebbe successo niente. Con ciò sottovalutando, come avrebbe scoperto presto, ciò che Stefani pensava e sentiva per loro. Beve d'un sorso parecchi bicchieri di sherry. Rifiutava di ammettere la difficoltà. Riempì precipitosamente i frequenti silenzi con aneddoti comici sulla parrocchia e risatine sacerdotali nervose e forzate. Ammirò il soufflé, che apprezzò enormemente, con un vigore tale che Winifred si sentì come un'inguaribile sciattona adulata da un assistente sociale per essere finalmente riuscita a preparare un accettabile pudding di uva passa. Stefani non disse praticamente nulla. Dopo pranzo bevvero il caffè in minuscole tazze lucenti. Non una parola era stata detta sul matrimonio. Daniel descrisse a Winifred il successo di Stefani con il figlio della signora Haydock e Winifred ne fu commossa, come lui aveva previsto. Gli disse che sapeva ben poco del suo lavoro e Daniel, facendo notare che spesso era meglio che la mano sinistra non sapesse quello che faceva la destra, scese nei dettagli, forse offrendo delle credenziali in modo molto professionale. Winifred gli domandò se la sua professione complicava le cose e Daniel si abbandonò a un resoconto delle curiose idee che la gente ha del clero, andando a parare, purtroppo per lui, sulla questione della vita sessuale degli ecclesiastici. Stefani era già angustiata. Gli svolazzi comici e retorici che Daniel fornì a sua madre la infastidirono. Lei amava la dura fatica quotidiana di Daniel, ma detestava sentirlo pescare, a beneficio di sua madre, parole astratte e sdolcinate, spontaneo, personale, accudimento, tenerezza, che appiattivano il suo lavoro banalizzandolo. Prese a rassicurarla con scoppiettante allegria sul fatto che gli ecclesiastici sono, nella sostanza, come tutti gli altri uomini per quanto riguarda il sesso. Si accorse del disagio tra le due donne e vide il volto di Stefani sopra la tazza del caffè, una fredda maschera di rimprovero. «Mio Dio», disse rivolto a lei, «mi dispiace, predico su cose di cui mi è capitato di parlare in altri luoghi, in contesti stupidi». «Ma non con te, io non dovrei parlare così con te!» Lo pensava anche lei, ma il suo imbarazzo aumentò nel sentirglielo dire. «Non essere sciocco», disse. Winifred fece coraggio. «Non dovresti criticare Daniel. Esistono delle difficoltà per questo matrimonio, e questa è una. Sono lieta che lei ne abbia parlato». Daniel continuava a fissare preoccupato Stefani, che evitava il suo sguardo. Ci fu un'altra sequenza di rumori in anticamera. Le tazze da caffè tintinnarono. La testa di Bill si affacciò sulla porta. «Oh, vi ho interrotti? In tal caso ditemelo e me ne vado». Silenzio. «È chiaro che vi ho interrotti. Tolgo il disturbo». Non si mosse. Daniel si alzò e gli tese la mano. «Buongiorno». «Molto gentile», disse Bill senza stringergli la mano. Le due donne sembravano statue di sale. «Venuto a corteggiare mia figlia?» «Spero che il corteggiamento sia finito». «Immagino le abbiano detto che la considero un'idea balorda». «Mi dispiace». «Rifiuto il mio consenso». Daniel aprì la bocca. Bill si affrettò a proseguire. «So di non averne l'autorità legale, ma moralmente, sono irremovibile. Non posso accettare un'unione palesemente destinata al fallimento». «Questa non è moralità, è arroganza. Quanto alla volgarità di questi incontri clandestini, me ne vado», disse Daniel, «è meglio. Non desidero restare se non sono il benvenuto. Spero che Stefani voglia sposarmi presto. Mi sembra evidente che starà assai meglio con me». Bill gli tagliò platealmente la strada e protese le braccia sbarrandogli la porta. «Lei non ha niente da offrirle. Lei non ha niente in comune con mia figlia». «Questo lo lasci dire a lei». Daniel era furioso. e la sua rabbia era alimentata dalla consapevolezza delle molte sciocchezze dette prima e dal prolungato silenzio di Stefani. «Non mi piace vedere come tormenta sua figlia. Approfitta del suo affetto. Mi lasci dire che quello che fa è crudele. Io non ho altre parole ed è una fortuna per lei che Stefani sia tanto forte. Ma non sono altrettanto sicuro che sia una fortuna per sua figlia. Le addossa responsabilità che hanno ben poco a che fare con lei, in realtà. E ora la prego di lasciarmi passare». «Un vero pastore», lo schernì fiaccamente Bill. Tuttavia, abbassò le braccia e si piegò alla riconciliazione con uno di quei caratteristici cambiamenti d'umore che tanto disorientavano e ingannavano la sua famiglia. «La prego non se ne vada. Qui tutti sanno che il più delle volte non parlo seriamente. Ah, santo cielo, io mi ci sarebbe essere che pensassi che qualcuno presta davvero ascolto a quello che dico. Non faccio che abbaiare, non lo nego, ma è tutto fumo e niente arrosto. Lo chiedo a loro. Nessuno si è mai scottato. Non può andarsene. Non abbiamo discusso di niente. Stefani, puoi contare su di noi, lo sai. Sei la nostra primogenita». «Non è questione di contare su di voi», disse Stefani. «Non ho fatto niente di male e non sono incinta». Daniel si rimise seduto. Le due donne erano ancora impietrite. Billy passò in rassegna uno per uno e disse: «Possiamo bere un bicchiere di... cosa posso offrirvi? Vedo che avete già bevuto dello sherry e il vino dà alla testa». «Le va un whisky?» «Sì, grazie». «Stefani, per favore, va a prendere un bricco d'acqua per il whisky del signor Orton. Ora, signor Orton, non voglio lasciarle credere che non amo mia figlia. Ogni famiglia ha le sue peculiarità. E se mi scaldo e mi infiammo nell'esprimere il mio amore, sbaglio, ma so che mi capiscono. Siamo una famiglia molto unita, di persone legate da grande affinità, signor Orton. E proprio queste affinità mi spingono a chiederle se ha riflettuto a fondo su come Stefani potrà vedersela con sua fede». «Ne abbiamo parlato?» «Non ne dubito. E il pastore? Immagino che non sia entusiasta». «Ha molto affetto per Stefani», rispose Daniel, nascondendo a Bill, come già aveva fatto con Stefani, le ansie tortuose del pastore Allenby e la propria determinazione a non cedere. «Vuole vederla, ma pensa che, se Stefani acconsente, è affar nostro, in fin dei conti». Un'espressione di profondo disgusto si disegnò sul viso appuntito di Bill. «Immagino che per il momento, e per parecchio tempo ancora, lei non sia in grado di mettere in pratica questo progetto». «No. Gli era stato promesso un appartamento in una casa popolare ad Arkwright, il quartiere in cui riteneva, da un punto di vista professionale, di dover operare e che, da un punto di vista economico, poteva permettersi». Bill portò al petto le sottili mani bianche a placare finte palpitazioni. Ansimò ostentatamente e infine disse: «Tutti lo odiano, quel quartiere. Ragazzini randagi e alberi di ciliegio regolarmente abbattuti. Io ci sono stato». «Anch'io. Non è poi così diverso dal posto da cui vengo». «Capisco. Può darsi che lei abbia ragione a volerci andare. Ma credo che dovrebbe aspettare un po', direi parecchio, prima di portarci mia figlia». «La voglio adesso». Bill versò altro whisky e continuò a conversare, piuttosto affabilmente, sulle carenze di Arkwright. Le donne non partecipavano. Daniel ne percepiva le riserve, ma aveva l'impressione di riuscire a cavarsela, di fare dei passi avanti. Si stava aprendo uno spiraglio. Decise di andarsene prima di abusare dell'ospitalità. Sulla porta Bill disse: «Una conversazione istruttiva. Ho imparato molto». Contrasse il volto in una smorfia velenosa. «Comunque, il cristianesimo è morto nel XIX secolo, amico mio. L'agonia è cominciata molto tempo fa e la morte è avvenuta nella seconda metà del XIX secolo. Quello che crede di sentire è l'agitarsi illusorio di un arto amputato». «Me l'ha già detto. Non proverò a farle cambiare idea». «Non ci riuscirebbe». «Sono abituata a pensare con la mia testa, comunque». «Non ci giurerei», disse Sibyl, e gli chiuse la porta in faccia. Qualche giorno dopo, Frederica vide spuntare Matthew Crowe dall'ombra del crepuscolo, dietro Palla di Atena, nel chiostro di Blessford Ride. Sembrava felicissimo di vederla. Trotterellò verso di lei con la sua figuretta minuta e le prese le mani. «Cara ragazza, un piacere inaspettato in questo sinistro scenario. Sono appena andato a trovare Alexander, che è stato scontroso in ospitale. Avevi intenzione di andarci anche tu?» «Sono andata a trovare mio padre, altrettanto scontroso in ospitale.» «Che edificio ostile! I miei prodi antenati! Tutta questa religiosità cattolica e atea! Andiamocene da qui!» «Volentieri», disse Frederica, che in realtà nutriva un affetto fanciullesco per quel pesante Pantheon. «Stai lavorando a sodo?» «Direi di sì. Se penso al dramma mi agito, ma di solito riesco comunque a lavorare.» «Un dono prezioso. Solo che divento molto irrequieta.» «Sarai sempre irrequieta. Ce l'hai nel sangue. Che ne dici di andare a casa mia a bere qualcosa, per rilassarci un po'?» Frederica resisteva solo alle tentazioni estreme. Crowe la condusse alla Bentley, che luccicava sul viale d'accesso alla scuola. Sprofondata in un sedile quasi indecentemente comodo, Frederica ebbe per un istante la netta percezione di come sarebbe stato fare il vandalo, estrarre un grosso coltello e ridurre a brandelli tutta quella pelle liscia e soavemente profumata. A Long Royston, Crowe la guidò attraverso saloni bui e silenziosi, con mobili e pareti in parte coperti da teli. Crowe trottava e Frederica galoppava. Percorsero lunghi corridoi e giunsero al piccolo studio caldo e ben illuminato. Nel camino di pietra guizzava un fuoco di ceppi. Crowe le offrì un'ampia bergère di cuoio e quello che a lei parve un bicchiere esageratamente grande di sherry scuro che le fiamme facevano riverberare di riflessi dorati. Le porse un piattino di arachidi salate e l'ingorda Frederica ne prese una manciata, come faceva sempre, per timore che non gliene venissero offerte altre. Lui scoppiò a ridere. Frederica non avrebbe dovuto preoccuparsi. Crowe era un ospite premuroso e le riempì il bicchiere con assiduità. Intanto le parlava di lei. Usava parole lusinghiere e carezzevoli, il solletico di elogi leggeri come piume, di una curiosità per le sue ambizioni e intenzioni calde e ricca come lo sherry. Nella vita di Frederica, il 1953 fu segnato da un aspetto particolare: la straordinaria preponderanza di incontri con persone pronte, anzi ansiose, di offrirle sintetiche definizioni della sua personalità, quasi tutta in bilico tra saggezza aforistica, sconcertante banalità ed esplicita avance. Crowe disse: «Quanto a me non ho doti particolari, mi interessano solo le doti altrui, il che talvolta rende un po' carogne, non ho difficoltà ad ammetterlo. La gente deve mostrarsi all'altezza delle aspettative di chi ha, diciamo così, investito su di loro. Il potere mi affascina.» «Lei ce l'ha il potere?» «Non come quello che hai tu, mia cara. Un patrimonio che amministra a vantaggio della cultura. Tu il potere ce l'hai nel sangue.» La invitò ad avvicinarsi alla scrivania. Le posò due piccole mani paffute intorno alla vita e disse che il potere, in certe persone, produce addirittura elettricità. E lei era innegabilmente pungente, molto interessante. La tirò con abilità sulle proprie ginocchia, nello scranno della scrivania. Frederica si stupì, ma solo perché supponeva che Crowe fosse un uomo anziano. Nutriva la vaga convinzione che alla sua età, di cui peraltro non aveva la minima idea, gli uomini fossero spesso ridotti a parlare più che ad agire. Le sembrava dunque di compiere un gesto gentile e persino condiscendente, dovuto alla sua giovinezza ed esuberanza, ricambiando con sguardi modestamente provocatori le battute più spiritose del suo ospite. In realtà la modestia era incompatibile con la scaltra altezzosità di Frederica, ma lei non l'aveva ancora capito, sicché le sue occhiate assumevano un'espressione involontariamente ammiccante e lasciva. Quando la prese tra le braccia, Frederica si rese subito conto che Crowe non era né rimbambito né impacciato. Palpava, frugava e tastava con sicurezza meccanica. Lei gli sedeva in grembo piuttosto scomoda. Per quanto fosse esperto, era pur sempre un uomo piccolo. Le gambe, il dorso di Frederica lo sovrastavano in un modo che le sembrava goffo e antiestetico. Cercava di sorridere, ma non era facile dal momento che le stava venendo il torcicollo per lo sforzo di mantenere la testa a un'altezza adatta a Crow, il cui amoreggiare era loquace e verboso quanto quello di Ed era stato taciturno. Il chiacchiericcio prese la forma di una dettagliata esegesi delle varie parti del suo corpo, come se fosse un'opera d'arte o una reginetta di bellezza. Crow odorava di sherry e fumo di legna. Frederica scorse la luna tonda e luccicante della sua tonsura, alla luna del cerchio. Desiderò che somigliasse meno a uno spaventapasseri, con le sue gambe e braccia dritte e rigide. Crow introdusse la mano minuta nella camicetta. Era una sensazione decisamente spiacevole, ma Frederica era incapace di fermarlo. Sperava che la sua biancheria intima fosse pulita, non sempre lo era. Crow disse: «Oh, come piccole mele fresche e dure, che delizia, sode, come il resto del tuo corpo, mia cara ragazza!» Frederica guardò fuori dalla finestra, che era senza tende, perché Crow amava contemplare i suoi cipressi, i tassi e i ginepri, scolorire lentamente nell'infittirsi delle tenebre, perché gli piaceva respirare il profumo dei garofani e delle violaciocche notturne e guardare la luna bianca veleggiare sulle siepi di bosso, sulle bianche statue di Apollo e Diana, all'imbocco del sentiero che conduceva alla conca del giardino sottostante. Nel vano della finestra, contro la finestra, come Alexander aveva visto il viso di Frederica a Gotland nella cornice del parabrezza, così ora Frederica vide un volto senza corpo, bianco, fisso, con la chioma fluente e un'aria inorridita. Era Alexander, le cui belle mani si materializzarono per un istante sul vetro accanto al viso, come per una supplica silenziosa, prima che la visione, arretrando, vacillasse, la ghiaia scricchiolasse e si sentisse bussare alla porta. Crow disse «Avanti!» senza lasciare andare Frederica. Anzi, aumentò la stretta del braccio intorno all'inguine e si limitò a estrarre l'altra mano dalla camicetta per posarla da fuori nel medesimo punto. Frederica fissò su Alexander due occhi da burattino insolente e lui disse «Sei stato tu a dirmi di venire per un drink? Sei stato tu a dirmi di girare intorno al cortile ed entrare?» «Sì, infatti, mi sembravi così riluttante ad abbandonare i tuoi sudici quaderni che ho pensato che non ti saresti fatto vedere. E Frederica aveva voglia di bere almeno quanto me. Così ci stavamo intrattenendo un po'.» Fece scendere Frederica dalle sue ginocchia, le diede un colpetto sul sedere e versò uno sherry ad Alexander. Frederica, con un singulto, allungò il bicchiere che le venne riempito. Alexander corrugò la fronte. Crowley contemplava sorridendo, benevolo e rubicondo. La frangia argentea dei capelli ondeggiava lievemente per la corrente d'aria del camino. Gettò altri legnetti sul fuoco, da cui zampillarono scintille verdi. «Per tre volte sparpaglia queste ceneri di quercia e torna a sederti muta su questo scranno incantato e per tre volte rinnova questo nodo d'amore con dolcezza sussurrando «Lei vuole, non vuole». «Comus!» disse Frederica. «No, no», rispose Alexander con tono professionale. «Thomas Campion!» «Ti ha tratto in errore lo scranno incantato», intervenne Crow con malizia, brandendo la caraffa di cristallo. «Lo scranno in Comus è molto più repellente», rispose Frederica. «Molto di più», disse Crow. «Quel sedile di marmo avvelenato, imbrattato di bave di calore glutinoso, tocco con i miei palmi casti e freddi». «Osceno!» disse Frederica tutta rossa e allusiva. Alexander la guardò con freddezza e si sedette. Aspettò che qualcuno dicesse qualcosa. Nessuno lo fece. Dopo un po' Frederica disse che doveva andare. Crow disse «Niente affatto» e Alexander disse che le avrebbe dato un passaggio. Sembrava, pensò, completamente ubriaca. Crow disse «Chiama tua madre, dille che rincasi più tardi e rilassati». E Alexander disse che era il biglietto di offrirle un passaggio. Lui doveva rientrare in ogni caso, al che Crow rise sgangheratamente e chiese a Frederica se era sicura di potersi alzare dalla poltrona. Percorsero tutti e tre il giardino a terrazze, poi viali bui ed erbosi che odoravano di rosmarino e bosso. Frederica aveva la nausea per lo sherry, l'euforia, l'indigestione estetica e l'avidità finanziaria. È stato un tale piacere, le disse Crow chiudendo la portiera dell'auto argentata. Torna, mi raccomando. Sì, grazie. Alexander ringraziò a sua volta e partì con un sobbalzo. Disse: Che stavate facendo? Non granché. I tuoi lo sanno che eri qui. Ne dubito. E a te che cosa te ne importa? In qualità di amico di famiglia. Oh, amico di famiglia. È la mia vita. Non vedo perché dovresti immischiarti. Un altro singhiozzo. Soprattutto, aggiunse, soprattutto perché io non mi mischio nella tua. Si adagiò sul sedile e chiuse gli occhi. È diverso. Può darsi, comunque io non mi mischio, questo me lo concedi? Sì. Per quanto ne so, non ti mischi. Frederica. Sei molto giovane. Lo so, sto cercando di invecchiare più presto che possa. Se continuo così, presto sarò degna di nota. Dovresti stare attenta. Non hai che da perderci. Cosa? Cosa ho da perdere, da cui io non mi separerei volentieri? E per di più sei ubriaca. Forse. Non ho la minima idea di quanti bicchieri mi sono bevuta. Ci sa fare, Crow. Sei una bambina rivoltante. Non una bambina, disse lei lanciandogli un'occhiata ammiccante. È mio dovere imbottirti di caffè, ma non ti porterò nella mia stanza. No, troppo imprudente. La caffetteria è aperta. Santo cielo, non ho voglia di caffè. Ti farebbe bene. Così Alexander la condusse nelle baluginanti profondità del seminterrato, dove bevvero schiuma bollente e caffè nero. Cosa sei, il fratello maggiore? L'angelo custode? Sei troppo giovane per capire le intenzioni degli altri. Tu non... Non cosa? Mia sorella va a letto con il vicario. Te l'immagini? Alexander si proposto di non provare interesse per quell'informazione. Non l'avrei mai detto. No, tu no. Io invece lo so. So un sacco di cose. Ma non voglio fare la parte della damigella in popelin giallo primula come una fatina di primavera. So di non saperne abbastanza su molte cose. Ma so qualcosa sull'Alessandrino. Alexander la prese come un'allusione sciocca e obliqua ai suoi affari amorosi, il che non era. Frederica non aveva mai neppure pensato di associare la forma del verso al nome del suo beneamato. Il suo era semplicemente un tentativo, incompreso e non ricambiato, di spostare la conversazione dal sesso all'intelletto. Di fatto, Alexander lo prese come il segnale per riportarla a casa a tutti i costi. La spinse dentro la macchina, guidò fino a Marsters Row e la cacciò fuori, sulla strada, dove lei rimase, inebetita e immobile, come un bambino che gioca alle statuine. Alexander abbassò il finestrino e sibilò: «Entra in casa. Sei meschino. Niente affatto. Entra in casa». Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.